sul tetto. La c'è sul tetto? Quella è stata uguale alla tua, proprio per un anno. Ah, ecco, ok, va bene, ottimo. Già va benissimo. Io ho messo tanti tanti. Anzi, con calma, con 5 minuti c'ho anche un riposo. L'abbasso, nuovamente, tanto lo faccio tutto da solo. L'abbasso e metto il polo. Signore, scusate, mi stacchiamo da signora, già non le prendi. Vabbè, sto riprendendo, però me ne devo andare io, fra poco lo devo portare giù in Tyson. Oh, via. Che ci avevo fatto una cantata, tu. Ah, la Basilia. Lì ero sempre, sono a tu, tra gli antichi qui. Lo so. Me lo immagino. Guarda, io sempre con gatto, insomma. Però una notte me la devo prendere anch'io. Ragazzi, io vi devo lasciare. Sono tanti una persona. Passiamo, ci sentiamo le prossime, ok? Ciao Antonio, ciao Gianni, ciao Marino. Alla prossima, ci sentiamo. Ciao gli ascoltatori. Ciao a tutti. Ciao, ma vi siete sovramodulati con Gianni, ma sei passato tu. Ok, dai, ci sentiamo. Non mi viene. Ehi, ci sentiamo, Otto. Alla prossima. Ciao, Ottore, ciao. Buona cena quando la fai. Dai, anch'io me ne vado anche tu. Saluto anche a Marino, se mi sta ascoltando, perché devo portare giù il cane, là. Ci sentiamo le prossime. Fatevi sentire e ricordatevi che questa è una frequenza che dura da anni e bisogna portarla avanti. Grazie, ok, saluti l'attore, ciao attore, ben sentito, dai, salta la signora, domani si coincide. Ciao anche Gianni, ben sentito, domani si coincide. È una frequenza, guarda, io non ti dico balle già. Io quando ho usato la Paolo 27 c'erano 8 anni, abitavo alla Tenorce e ti dico anche chi mi ha battezzato. Mi ha battezzato Mario Mao e Gabino Passerotto. E Gabino Passero. Dunque, da 8 anni c'è la licenza sempre a nome di mio padre, quindi non c'era che poi abbiamo fatto il nome mio esattamente, sono ogni tanto il lavoro della manca, però dopo ritorniamo sempre, capito? Sono stato un po' assente, però sono ritornato, è tutto qua. Bene, anche tu. Ma ciao già, se ne sentiamo, ma non ce l'aveva nessuno, che solo tu ce l'avevi, la 27. No, come giù a Trose ce l'ho io, Mario, Gianluia, Bacchisio, Alta Dolce, poi c'era anche qualche altro, non mi ricordo, ma c'era la Freccia, conosciuto la tua Freccia. Maga, la Freccia di Nokia. Giovanni la Freccia, era stata nel Pisa. No, dico nella tua famiglia, non potrò amare nessuno. Non ho capito, là? Nella tua famiglia. Sono tu modulato. Sono io, esatto. C'era un cugino, mio cugino, Mario Rubinetto. Gianni forse l'aveva sentito, Mario Rubinetto. La zona è... Come feda, diciamo, dai. Scappa. Venirane allora, la pilota era piena. Poi c'era, dovevi stare alla sopravvivenza perché hai tutti i fuochi. Diciamo che ogni canale c'è la gente, ciò che la notte era molto bella, andavamo a letto a mezzanotte, la una e due, capito? C'è la gente, molte signore, gente sposata, vediamoci, no? Gente sposata, c'è la gente, abbastanza. Qualcuno è morto, il genere che ci ha lasciato, c'è qualcuno da c'è, però è mancata un po' la voglia e così via. Ma i sette di Manzano buri si sono fatti, ma io mi ricordo che alle 7 di mattina mamma veniva, io ho cominciato a 14 anni a modulare, mamma veniva quando era a casa di mamma, c'avevo la Grand Prix con il radiale 275 che pompava forte con l'antenna, solo che dava disturbi ai televisori, rompevano le barre. E mamma veniva, spegni quella radio, non è ora di stare, che dobbiamo dormire. Mi mettevo le cuffie e mi ascoltavo le gare che facevano di notte con Badesi, Vittorio Giove, come si chiama? Non mi viene adesso. E vabbè, comunque già che capito. E facevano le gare, capito? Mi attaccavano gli aroni allucinanti, l'altro detto va. Ascolta, già, conosciuto hai tu i due fratelli che abitavano in via Valletta, Tonino e Nando, poi c'era anche Luciano, Luciano adesso oggi a Olbia c'ha una palestra, Tonino fa il geometra e l'altro c'ha un negozio, vabbè, ha tutto venduto. Comunque sono due fratelli, tre fratelli, Tonino Attamo si chiamava, poi c'era anche con i bancari, adesso mi ricordo il nome, c'era, e poi c'era quello d'Argentiera che era il socio di Tonino, conosciuto lei. Nino sta dicendo quello dei bancari, Nino Gabbiano. Esatto, esatto. E io li ho conosciuti tutti, ci sto dicendo che avevo 14 anni quando ho visto il primo apparato che era un Lafayette tre canali portatile, e lo usavo da casa. E diciamo che in zona Sacro Cuore c'era Ragus e Petrus a Sacro Cuore, poi c'era come si chiama, Palpal Pegastro, tutti questi nomi strani, Lucchetto, ve li ricordo tutti. E ce n'era gente, era più divertimento, ce n'era. E tu conosciuto l'hai la moglie del pittore, di Libero Benedina, hai conosciuto l'hai? Benedina? La moglie conosciuta l'hai? Aveva una bella fama. Che la figlia Daniela era sposata, si è sposata con la qualcosa, un piano, a quel pasticceria, cioè in via Rosello, quello che era in valle, diciamo, dai. E ce n'era gente, ce n'era, ogni canale, devo sapere, il canale era pieno, dalla mattina alla sera. Sono venuti a Vanno, ma tu, due gatti, vabbè, la metà siamo tutti in ascolto, non voglio entrare perché sono vergognosi, capito? Ma c'era pure la crema di Sassari, non erano tutti in persone tranquille, c'era gente che entrava solo per rompere, eccetera, con cattoli, via dicendo, non era tutta gente tranquilla come lui, là. Già lo so, sì. E poi tu conosciuto la cosa, con il perito tecnico, aspetta, dove abitava, dove sarà il corso? Era un tecnico del corso, lavorava, non so, la petrochimica, come cavolo si chiamava, Rosa Verde, una cosa del genere, conosciuto lei? Sono andato pure a casa sua perché mi doveva dare un alimentatore autocostruito da lui, te lo do io un alimentatore, non ti preoccupare, doppio lungo. Perché adesso c'aveva il bipolo dentro casa dove stendeva la roba da vestire, stendeva tutto il bipolo in un magazzino abitato. E c'aveva la lampletta con questa rosa verde, per quello si chiamava rosa verde. E praticamente questo alimentatore, come l'ho attaccato alla presa, boom, esploso, cazzo. Mi sono fatto tutta la manonella, meno male non mi ha dato nascosto. Quello è un tecnico, ma no, non so se ha finito tanto a Porto Torres. Mi ha combinato, uno di un ragazzo si è ubriaco, era sempre ubriaco, però era una persona brava, voilà, diciamo. Sì, era bravo c'era aggressivo, però come persona c'era in gamba, e c'era gente. E vabbè, c'era gente cattiva, gente brava e così via. C'era gente. Anche avanti. Qui c'era Falcone. Ce l'ho conosciuto anche a lui, ce l'ho conosciuto, casinista o altro, ragazzi. Avanti a tu. Io mi ricordo con la signora che è poverina, che era brava, era Fiocco di Neve. Fiocco di Neve, Fiordaliso, Ciregina ce la conosco, la sera la conosco, e poi c'era Stella Alpina e abitava la Tenoce, il marito era mio mattone. Stavo il marito di Stella Alpina, lo conosco abbastanza bene, ci conosciamo abbastanza bene. E le donne venivano, c'era quella parrucchiera che c'era anche la Saletta, adesso non so se lì la Stella Alpina, l'altra, c'era gente, tu. E io a Puglia, poi a Latte Dolce, a Porto Torres, a Sartini, c'era tutto pieno. a satellite dove andavi andavi c'era l'antenna. E non qui un cuore che la modulavo io tu. Cosa? Un cuore che la modulavo io. Con la bomba la modulavo io, buttata sulle, sul terrazzino delle, del tetto piano per il tavolo io. Messa così proprio, arrivava un po' sottoso, anche Alghero sono arrivato. Prima, oggi per un Alghero, lo sai, bisogna avere un lineare, insomma, veramente a vita Alghero, con quelle cose sono oggi. Arrivava tutto sparato, prima si modulava, bastava pochi watt. Entravi e entravi sparato. Oggi è un casotto, è tutto cambiato, avanti già. No, io già arrivo al ghetto, Santiago Otto, la casa, senza lineare, senza Santiago Otto. Ma dipende anche dalla zona dove sia. Ma prima io con portatile arrivavo ad Alghero, ma c'era meno inquinamento atmosferico, adesso ci sono tutti gli inquinamenti dei cellulari, tutte le radiazioni che sono in giro a Canada. Quella lì è quella lì è tutte quelle lampade a coso, a LED ci sono, qua io non ti comballo, quando uno vicino attacca il robot della piscina, io qua non capisco un cavolo, mi fa un rumore ancora paurosa, ma mi disturba proprio pazzesco. Dunque mi tocca attaccare bottoni, bottoncini per liberare cose, ma non è questo parecchio, c'ha abbastanza fisica, capito? Se no era un casotto. E io uscivo, mi ricordo sempre, era un baracchino piccolino, un Zodiac a 5024. Un piccolo alimentatore e la bomba era buttata al terrazzino di quella signora, non so per dove abitavo io alla Feroce. E grazie a Dio queste O e queste L ne ho abbastanza, ne avevo, sono conservate, ne ho non poche, un bel. Questo dopo anche dimostrare Giulio Dondalo, c'era anche Giulio, c'era pure anche Giulio quanti di ex facevamo. E io sempre lo picco parecchio, un 40.000, avanti anche tu. Beh, guarda che... Sì, cioè, io la tutta la numera è compata a me. Cioè, non è da sottovalutare. La mia compava anche parecchio. Andava a porta, chi l'ho data era contento, era. Quando io non ti ricordavo, Anto, quando io entravo, abitavo la mamma, lo so, noi c'eravamo i negozi di mio padre, mio fratello, c'erano questi bombole. Quando mio fratello andava in piazza Botte, che già lo sai dove è, a te a te, quella signora, ti ricordi che c'era un periodo che ci vendevano questi stereo in giro, stereo 2000. A me molte volte mi sentiva, ci ho sentito una colonnina dello stereo, me l'ha fatto sentire la signora. Ero io, pure il microfono dei campanelli, figurati, prima entravi dappertutto, adesso è molto di meno, ma prima era per disturbare, si disturbava dappertutto. Avanti già. E quando passavo in via Umberto, se mettevi la portante c'era l'allarme di Navarco che si attaccava e suonava l'allarme, fuia. E vabbè, prima c'erano diverse frequenze per le cose, quindi magari interferiva. E vabbè, comunque, andando me ne sto vai, se no non scendo più questa arrivare là. Io c'è Drumito, quindi non è che gli dà tutti assai, ma c'è Drumito. E lui a mio fianco a me addormentato, non è che gliene preghi molto, ma devo portarlo perché poi devo farmi da mangiare, se no si fa troppo tardi. Ci sentiamo, buona serata a tutti, grazie per il QSO e ricordatevelo di entrare ogni tanto. Ciao! Ogni tanto già arriviamo già, va tranquillo, ho dimenticato che c'è anche, che c'è, ogni tanto già entra. Bruno Uragano, c'è anche il fratello Aldo che entrava. Aldo, fratello, quello lavorava, c'è in pensione alla ospedale. Bene, ciao già, nuovo, ci siamo domani, avanti a te. Abita di fronte alla porta mia. Lo so, perché non lo so. Mia sorella lo vede, mi portiamo qui, portiamo più avanti. Oh, nel mio pianerotto, di fronte a me. Ah, tutto da vicino siete, dai, meglio così. Ciao già, nuovo, avanti a te. Ciao, tuo padre come entrava, scusa. Mio padre, Vela 1 si chiamava. Come si chiamava? Vela 1. Vai, ok. Ci siamo sempre se abbiamo parlato assieme. Tuo padre è il gemello di Marcello, giusto? Come? Tuo padre era il gemello di Marcello, il fratello no. No, no. Diverso, no, che io una volta stavo confondendo con Marcello, qui a Cosa, l'ho visto in Carriera Verga. No, no, non è, non c'era gemelli qua. C'era vela 1, vela 2, vela 3, tutti e tre c'era. Ci dovrebbe essere un accenno anche. Sì, ma un bel però. Allora chiedo un coglione, lascia perdere. Io mi è sembrato quasi preciso, già capito che sto dicendo, sì. Quello che avete in campagna, no? Ma è tutta sta cosa. Ma poi che furbetto, era incazzoso con il giramento di palle. Però, vabbè. Cosa vuoi fare? Scappalo. Avevamo avuto, come appena piccole, non ci abbiamo avute tutte. La Tormo, la... come si chiama? Ma non mi viene. Abbiamo avuto la cosa, la... Io ho avuto anche la boomerang, anche lui ce l'ha avuto, ne ha avuto diverse boomerang. Però quando muove la tenda sul tetto è tutto un altro mondo. Anto, abbassa un pochettino la modulazione, che se mi salutare è stato forte qua, mi salutano, come radio. Io ho problemi al ritmo e ti sento un pochettino malino, capito? Abbassa leggero. Non so, quello va bene, io ho usato sempre quella lì, e mi va abbastanza bene io con tipo di antenna. Sono uscito, l'ho usato anni con l'antenna, era un bombo. Non è che mi è servita del coso, andava abbastanza bene. Ora, meglio va adesso. Adesso va bene. È stato forte, non c'è, c'ho problemi all'udito e non sento troppo male, ti sento distorto, ti sentivo, leggermente. Tutta una cosa diversa, Prima c'erano apparecchiature, io ho avuto sempre quella lì, ricevitore, ho avuto poco le apparecchiature, io già. Anche già amato un poco. Allora, tassa di me, giù, per aggiungere un po', c'è la boomerang in alto. E prendeva, funzionava. Usciva abbastanza forte, Funzionano bene quarantenne vanno benissimo. Quanto? Quarantenne vanno troppo bene. Io ce l'ho avuto una ma l'avevo piazzata in alto, si affianca quella lì, capito? E come antenna va, troppo bene va come antenna. Scappa. Ah, io sono contento di questa, sono contento, molto contento anche. Sono contentissimo di questa antenna che ho preso. Già va bene, io lo stesso, stavo scegliendo la finalità, ma andiamo a vedere va. Prendo questa, costa poco e già va bene. Già va bene. La sua strada è un bombo. È già in quattro che ve l'avremmo. Esatto, siamo in quattro. Adesso diciamo che Marco ce l'ha parecchi anni, 10 anni. Figurati, 10 anni. Non è poco. Non è poco, no. Io quando lavoro c'ho la manovella, giro, la scendo, faccio la manutenzione e poi la sollevo. Semplice, già hai visto il lavoro che abbiamo fatto? Ah, io la chissà. Devo comprare una scala, non si sa mai che si deve salire giù. Una scala come si deve da 5 metri, perché il mio digno ne mettevamo due, ne mettevamo, capito? Per salire giù. Tra qualche anno vediamo. Finché reggi la che muccia, magari fa qualche anno, magari tu cosa la compare giù nuova. Dico che per venire con le scale pieghevoli, per lui se sono YouTube ho visto quelle scale piccoline, pieghevoli, non ti prende spazio e la consegui in magazzino. Oppure pure in casa tua perché è pieghevole e piccolina, capito? La sollevi tutta fino ad arrivare a dove devi arrivare, già va bene. qua ci vuole una scala da 5 metri per salire su. Figurati. Io ho due mesi, tipo quello di Giallene, o la Sierpe, capito? Due mesi, sono da 3 mesi e mezzo più o meno, 3,51, ne ho due di quelli che mio amico mi ha procurato, io ogni tanto le cambiano, capito? Ogni tanto le cambiano. E sono 3,5 metri. E prima salivo con quello e poi mi facevo volare la scala più leggera dal mio vicino in alluminio, ero stanco di chiedere, capito? Ma era volentieri senza nessun problema, ma mi rompeva le scatole a me, capito? Mi rompeva le scatole. Alla fine abbiamo fatto questo lavoretto con Luca e ho risolto. Ho risolto al 100%. Sul tetto non ci devo più salire. Sì. Appunto, vai sul sistema, vai, da una bomba, va. Qua che ti ha messo un'antenna che per anni non la tocchi, vale. Ma anche questa, di manutenzione, lui. Ma gente che ce l'ha non l'ha mai toccata, è sempre a posto. Io la guardo ogni giorno. E appunto, mi vedevo con calma, no adesso con calma, c'è un dipolo che lo voglio piazzare sopra, con calma, non c'è un minuto, adesso mi sveglio le cose che mi interessano, con calma abbasso, tanto sono 10 minuti, devo solo sganciare e girare la novella, sganciare i tiranti, diciamo, là, e basta, e girare la novella, e basta, la bacia sta con il polo, e poi la sollevo nuovamente. Sono 10 minuti, già si fa veloce, va. Già da me abbiamo fatto 13 con quel sistema, 13. Sì, io non che tocca a fare tutta un'altra capicciuglia. E dove la metti? Non la puoi mettere di questa maniera. Devi salire per forza sul tetto. Qua. Comunque, adesso devo comprare la scala. Ma adesso appena che riesco a pagarmi un po' di roba, e ho ancora un po' di roba da pagare, mi compro la scala. E tu la sistema, tu non fai l'antenna, l'hai già piazzata. Quando c'è qualcosa, prendi, ti compri la scala, tagliati da parte, capito? Tagliati da parte, quando tu sei, ce l'hai. Ce l'hai, sali su e fai quello che devi fare, capito? Se devi fare qualche manutenzione, si deve attaccare qualcosa, capito? Un casotto, sai sul tetto, io ripeto, sinceramente non mi vergogno a dirlo, oggi lì c'ho paura a stare sul tetto, c'ho paura sinceramente, prima salivo come una scimmia salivo, ma oggi no, e io un giorno col ponteggio mi sono visto giù in terra col ponteggio, ho spacciato l'antenna che mi hanno regalato e l'ho fatto a pezzi, perché l'ho lanciato a terra l'antenna. L'ho lanciata e si è fatta a pezzi. Mi viene l'antenna che io giù, capito? Stavo per cadere, c'è un po' di vento e mi stava facendo vela. Sempre facciamo le cose da solo, capito? Ha detto, ha giovenito, non ci vedo più sei sul tetto. Allora ha giovenito, ma va tutto a terra. Sì, con quel sistema lì ce l'hai. E via. Io sto pensando, non si sa mai che poi negli anni non la trovi più, sto pensando di comprarmene un'altra, sto pensando di mettermela di scorta, non si sa mai. Ma un'altra come riserva o un'altra piazza del su? Un'altra antenna mi voglio prendere. Ma sempre per la 27? Sì, un'altra da scorta. Quella è la GPE. Mi soddisfa molto come antenna. Già va bene questa va benissimo, è ultimo. Costa come le costa, non costa molto e già va bene. Già ti dà qualche soddisfazione, dai. Esatto. Anche dai fatturati che ha pigliato, dalle cose mi soddisfa molto, mi sta soddisfando. Chi doveva addentrarmi? Io ce l'ho quasi un anno, ce l'ho, sul tetto non l'ho più toccata io. Mi sta soddisfando, la verità. Già va bene. Bene, adesso ne approfitto, dai. ne approfitto così saliamo su, stacchiamo tutto. Ciao, mi ha fatto piacere sentirti e a domani sei concile. Ciao a tutti, tutti gli ascoltoni per me, come detti, a domani. A tu ciao, ci sentiamo Mario.